Fuggire, strategia del combattimento. Combatti il buon combattimento della fede, 1 Timoteo 6 e 12. Fuggi le passioni giovanili, 2 Timoteo 2 e 22. La vita cristiana è un combattimento. Si combatte contro le potenze malefiche, contro il mondo e contro i desideri della carne. Eppure l'Apostolo Paolo ordina a Timoteo di fuggire gli appetiti giovanili. Debolezza, vigliaccheria, tutt'altro. Fa parte della strategia del combattimento. Quando gli israeliti combatterono contro la città di Ai, Konami, la prima volta combatterono valorosamente ma furono sconfitti. La seconda volta, per strategia, finsero di fuggire e vinsero. È vero che il cristiano è stato salvato per combattere e non per fuggire, ma a volte è saggio fuggire certe trappole o tattiche del nemico. Con queste riflessioni impareremo non l'arte di attaccare o quando attaccare, ma piuttosto vedremo quando è il momento di fuggire da certe cose per essere vittoriosi. È importante considerare la tattica della fuga perché, come è sbagliato fuggire quando è invece il momento di combattere, così è sbagliato combattere quando è il momento di fuggire. 1 Corinzi 6 e 12 20 Fuggire la fornicazione. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre per le vivande Dio distruggerà. Questo è quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come è risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta forma uno stesso corpo con lei? I due infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Delle quattro cose che considereremo da cui il cristiano deve fuggire, due riguardano il sesso. È importante sottolineare questo aspetto perché coloro che non hanno dato la giusta importanza a questo insegnamento sono caduti in grosse trappole. Dio conosce la nostra natura e sa che questo campo è molto delicato, perché Lui stesso ci ha creati con un impulso sessuale molto forte per la conservazione della specie. Questo impulso è tanto forte che ha fatto perdere il controllo ad uno degli uomini più coraggiosi come Davide, ai più forti come Sansone, ai più intelligenti come Salomone. Se noi facciamo parte di queste categorie, cioè se siamo degli uomini coraggiosi, forti e intelligenti, allora siamo sempre in pericolo. Se invece non facciamo parte di queste categorie, non tenere in considerazione questo imperativo diventa fatale. Se mediante lo spirito possiamo avere comunione con Dio e mediante l'anima abbiamo comunione con altri esseri come noi, con il corpo, abbiamo contatto con la realtà materiale, questa triade che fa di noi ciò che siamo non deve mai essere dimenticata. Cosa che invece fecero i Corinzi. Alcuni credenti di Corinto frequentavano le prostitute, perciò Paolo ha dovuto dire: «Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Straordinario. Di fronte ad un peccato grave, come la fornicazione, Paolo non fa, come avrebbe invece fatto ognuno di noi, nessun ragionamento moralistico. Non porta i credenti a pensare quanto sia moralmente grave il peccato della fornicazione o come possa disonorare Dio. Egli si limita a ricordare ai Corinzi un principio divino. Poiché il Figlio di Dio fa parte del corpo di Cristo, unendosi ad una prostituta si usano le membra di Cristo per diventare un solo corpo con lei. Questa riflessione è molto solenne ed impegnativa. Nessuna relazione o esperienza dà occasione al corpo di essere unito ad un altro, come la sessualità. Se disonoriamo Dio, se non onoriamo i nostri genitori, se rubiamo, uccidiamo, se mentiamo, il nostro rapporto con Dio e il prossimo si spezza sì a livello morale e spirituale, ma non vi è un totale coinvolgimento con il corpo. Mediante la sessualità, invece, i due diventano uno. Il coinvolgimento è totale, anima, spirito e corpo. Venendo espressa nell'ambito dei canoni prestabiliti da Dio, la sessualità onora il Creatore. Diversamente, pur non essendo il peccato peggiore, perché la bestemmia contro lo Spirito Santo è imperdonabile, Matteo mezzogiorno e 31, essa rimane comunque quella che, maggiormente, dà occasione al corpo di essere unito ad un altro. Per questo, Paolo ordina ai Corinzi di fuggire la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Quale corpo? Indubbiamente il corpo del credente. Il riferimento però è anche al corpo di Cristo, del quale il Figlio di Dio fa parte, essendone membro. Paolo usa l'esperienza sessuale, che fa diventare due corpi in uno, trasferendola anche al corpo di Cristo. Se ciò che Paolo ha detto appartenesse ad un ragionamento puramente allegorico, non avrebbe avuto senso il suo discorso, perché di fatto non sarebbe stato usato un membro di Cristo per farne membra di una prostituta. Per forza di cose, bisogna ritenere l'affermazione di Paolo in senso letterale, cioè che letteralmente il Figlio di Dio faccia parte del corpo di Cristo, e sempre letteralmente che mediante la fornicazione egli usi le membra di Cristo per farne membra di una prostituta. Allora, il corpo di Cristo non è una semplice immagine allegorica, è un fatto vero. Un giovane mi chiese se fosse peccaminoso avere dei rapporti sessuali prima del matrimonio. La cosa non mi stupì più di tanto, perché quando un impulso è forte, la mente può andare in confusione. Inoltre, i giovani fanno questa domanda perché non sono sufficientemente istruiti nel campo sessuale. Conoscono i termini adulterio e fornicazione, senza coglierne il significato pratico. Pensano che l'adulterio sia il peccato di infedeltà di un coniuge, mentre la fornicazione la collocano nell'ambito dei rapporti prematrimoniali. L'adulterio è sì riferito all'infedeltà coniugale, ma la fornicazione ha un'applicazione molto più ampia, che può essere l'incapacità di contenersi sessualmente, come una relazione illecita e stabile nell'ambito del matrimonio. Un uomo sposato che cede una volta alle proposte sessuali di una donna, commette adulterio, ma se mantiene una relazione stabile, l'adulterio si trasforma in fornicazione. Nel primo caso non vi sono gli estremi per il divorzio, nel secondo caso la moglie, secondo ciò che Gesù ha detto in Matteo 5,32, ha il diritto di chiedere la separazione. Il problema dei rapporti prematrimoniali non esisteva nella cultura ebraica, perché essi non venivano praticati. I due fidanzati non si vedevano fino al giorno delle nozze. Perciò non avevano le problematiche che hanno i fidanzati oggi, anche perché i giovani non fanno distinzione tra fidanzamento e matrimonio. Il matrimonio è il matrimonio, il fidanzamento è il fidanzamento. Vivere un fidanzamento come un matrimonio sarebbe come vivere un matrimonio come un fidanzamento. Se a due sposi sembra assurdo vivere come due fidanzati, così è assurdo vivere come due sposi quando si è fidanzati. Il fidanzamento deve essere diverso dal matrimonio, altrimenti non è più fidanzamento. Quindi i rapporti prematrimoniali e l'infedeltà coniugale sono condannati da Dio. Leggiamo 1 Tessalonicesi 4, 1-8. Per il resto dunque, fratelli, vi preghiamo ed esorchiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello. Perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità ma alla santificazione, perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo ma Dio che vi ha. Anche questa lettura mette in evidenza che le irregolarità sessuali sono quelle più citate tra i divieti di Dio. Astenersi dalla fornicazione. Saper controllare il proprio corpo. Non cadere vittima di passioni disordinate. Proprio per questo la parola di Dio continua col dire: ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizie siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Efesini 5, 3 a 5. La chiamata di Dio per i suoi figli è vivere in santità, per cui non sono leciti neppure i discorsi immorali. I figli di Dio si devono distinguere dagli altri anche dal modo in cui parlano. Barzellette chiamate sporche, doppi sensi sul campo sessuale, non devono essere oggetto delle conversazioni per chi teme Dio. Fuggire la fornicazione è quindi uno dei primi imperativi da ascoltare. 2 Timoteo 2, 20-22. Fuggire le passioni giovanili o gli appetiti giovanili. Ora in una grande casa non vi sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Secondo l'Apostolo Paolo, vi sono dunque due tipi di passioni, quelle giovanili e quelle non giovanili. Senza cercare di esaminare tutto, è sufficiente chiedersi che cosa intendeva l'Apostolo quando parlava di passioni o appetiti giovanili. Egli intendeva certamente tutto ciò che stimola i desideri quando si è giovani, specialmente nel campo del sesso. Tutto quello che stimolano le passioni giovanili sono le immagini erotiche, i discorsi erotici e tutto quello che può catturare la mente di un giovane in quanto è forte, sconosciuto e eccitante. A una certa età, quando ormai sono crollati tutti i castelli in aria, non ci si lascia più allettare da chimere, da fantasie, da parole ingannatrici. Perché si diventa realisti, pratici. Si è imparato a vedere le cose nella loro realtà. Ad una ragazza che si innamora di un uomo sposato è difficile far capire che questo sentimento è contro la logica, il buon senso, perché il buon senso, quale prodotto dell'esperienza, ella non lo possiede. Così, uno studente che all'ultimo anno lascia gli studi perché si è innamorato di una ragazza, o perché un hobby di cui va pazzo non gli permette di studiare, non si rende conto che tutto questo ha a che fare con le fugaci passioni giovanili. Anche una persona di una certa età, sposata, con dei figli, se non rifugge da certe passioni è facile che rimanga intrappolata. Allora, capita che il datore di lavoro fugga con la sua giovane segretaria, che il marito scappi o abbia una relazione amorosa con la migliore amica di sua moglie. Perché non sono fuggiti, ma hanno giocato con un pericoloso nemico che non perdona, l'innamoramento, i sentimenti. Il nostro cuore è maledettamente romantico. Parlando di appetiti giovanili o passioni giovanili, non si può trascurare il pericolo che rappresenta la televisione. Credo che tutti noi abbiamo un punto debole, e quindi quello che può tentare uno può essere innocuo per un altro. Per alcuni le scene erotiche non li coinvolgono più di tanto, mentre una storia sentimentale, un film romantico, producono su di loro degli effetti negativi. È evidente che per queste persone è bene evitare tutto ciò che li trasporta sentimentalmente. 3. 1 Corinzi 10:14. Fuggire l'idolatria. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto. Il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti, e non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi, che ci troviamo alla fine dell'età. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele, e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere. Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. L'Apostolo Paolo riporta alcuni episodi descritti nel libro della legge. Al versetto 7 Paolo afferma chiaramente che il popolo di Israele divenne idolatra. Che cosa fece il popolo che l'Eterno aveva redento per diventare idolatra? Secondo la narrazione nel libro dell'Esodo al capitolo 32, un giorno il popolo si alzò presto, offerse sacrifici, olocausti, mangiò la carne di tali sacrifici, poi volle divertirsi. In pratica aveva mescolato la solennità di un rito con i divertimenti della vita. Il discorso di Paolo è quindi abbastanza chiaro. È idolatria quando si mescolano le cose sante, le feste e le solennità religiose che riguardano Dio, e poi sentirsi liberi di vivere come se Dio non esistesse. Per colui che adora il vero Dio, l'idolatria consiste nel frequentare i giorni festivi, le riunioni, e poi durante la settimana, la volontà di Dio non è una realtà che influenza il suo modo di parlare e agire. Religiosi sì, ma separati da Dio. Si diventa idolatri quando una qualsiasi cosa prende il posto di Dio. Forse questo capita più spesso di quello che pensiamo. Si legge nel dizionario enciclopedico del pensiero di Tommaso d'Aquino, e sotto la voce idolatria. Punto nel significato letterale indica il culto degli idoli. In senso proprio l'idolatria è l'attribuzione del culto supremo dovuto a Dio a una falsa divinità, alla sua immagine, al suo simbolo. In senso più ampio si può intendere anche oggi per idolatria ogni culto vizioso prestato alle creature, in quanto il culto spetta esclusivamente a Dio. Poi continua col dire, non solo l'idolatria è peccato, ma uno dei peccati più gravi, in quanto è prestare il culto riservato solo a Dio, a chi non si deve, cioè a qualche creatura. Non comprendo come questo pensiero di Tommaso d'Aquino, chiamato il dottore della Chiesa dalla religione cattolica romana, non sia stato preso sul serio. A quante creature oggi vengono date il culto e vengono venerate? L'ordine di Dio è ancora valido. Fuggire ogni forma di idolatria. 4. 1 Timoteo 6, 6-11. Fuggire l'amore o l'avidità del denaro. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. La parola di Dio non ha mai nascosto la pericolosità del denaro. Paolo fa notare come l'amore del denaro sia la radice di tutti i mali. Ancora una volta è bene sottolineare che il denaro non è una cosa negativa. Paolo non sta nemmeno dicendo che voler diventare ricchi sia un peccato. E Dio che determina il tenore di vita. L'Apostolo sta semplicemente dicendo che accontentarsi del proprio tenore di vita è un grande guadagno, un grande vantaggio, perché coloro che hanno voluto arricchirsi a qualsiasi costo, debiti, compromessi, si sono procurati molti dolori. E l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Infatti, se esaminiamo le cause di guerre, litigi, rancori, scopriamo che molto spesso sono determinati da interessi materiali. Peccato che i cristiani si lascino abbagliare da cose terrene. Inoltre Paolo avverte che l'amore per il denaro svia dalla fede. Chi di noi non conosce qualcuno che per amore del benessere si è allontanato da Dio? Ecco perché è saggio ricercare la giustizia, la pietà, l'amore e la pazienza. Fuggire, questo è l'ordine di Dio. La fornicazione, gli appetiti giovanili, l'idolatria, l'amore per il denaro sono nemici che non vanno combattuti. Noi siamo evidentemente troppo deboli per vincerli e allora la cosa più saggia è fare, come Dio dice, scappare. Se cerchi di ragionare quando hai un legame illecito, quando una qualsiasi cosa ti prende al punto che Dio non ha il primo posto nella tua vita, quando vi sono dei forti interessi materiali e da cui sei attratto, se non fuggi userai la ragione e la parola di Dio per giustificare il tuo comportamento. Ho visto dei bravi e zelanti credenti che per non essere scappati al momento opportuno sono caduti inesorabilmente per non rialzarsi più. Combattere il buon combattimento della fede è un ordine. Fuggire fa parte di questo ordine. Dio non vuole dei temerari, degli inutili eroi, ma dei figli ubbidienti e accorti. Un re saggio, avendo bisogno di un buon cocchiere, convocò tutti i cocchieri del suo regno. Volle sentire il loro parere su come guidare un cocchio. «Vostra maestà», disse uno, «io sono molto esperto e posso condurre la carrozza fin sull'orlo del precipizio senza farla cadere». «Io non sono così esperto, vostra maestà», disse un altro, «perciò desidero tenermi lontano il più possibile dall'orlo del precipizio». «Bravo», disse allora il re, «tu sarai il mio cocchiere». Questa è la saggezza del cristiano, fuggire, tenersi lontano dai pericoli, che possiamo combattere con tutte le nostre forze il buon combattimento della fede, ma fuggire anche ciò che Dio ci ordina, per essere soccorsi al momento opportuno. Marzo 2002. Ellero.